America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, Goldman Sachs, la banca sotto accusa della Security Exchange Commission, la nostra Consob, ha risposto ieri alle mille polemiche attorno alle accuse di truffa che ha ricevuto dalle autorità con il valore più importante a Wall Street, e cioè con i profitti, 3,46 miliardi di dollari per il primo trimestre del 2010, il 91% in più rispetto al primo trimestre del 2009. Eppure la polemica continua. Sentiamo cosa si è detto in una conference call di ieri mattina. ABN AMRO was willing to take on the possibility that, you know, ACA would have financial difficulties. La voce che avete sentito è quella di Gregory Palm, l'avvocato interno al gruppo Goldman Sachs. Non era mai successo che in una conversazione con gli analisti, con i giornalisti, come quella alla quale abbiamo partecipato ieri, intervenisse un avvocato. In genere c'è sempre il direttore finanziario, che infatti c'era, David Vinyard, ma la parte del leone, il mattatore, è stato il general counsel, l'avvocato del gruppo. Perché? Perché la maggioranza delle domande sono state relative al caso aperto dalla SEC contro Goldman Sachs. I profitti, nonostante buoni, sono passati in secondo piano. E dunque il signor Palm ci ha dato alcune idee su come risponderà Goldman Sachs alle accuse della SEC. Innanzitutto ha confermato ieri Palm che Goldman Sachs è assolutamente innocente. Ha fatto il suo ruolo di mediatore fra le parti, non era una parte attiva nello speculare, e dunque non capisce, dice Palm, perché Goldman Sachs debba essere accusata. In secondo luogo ha anticipato che forse, piuttosto che imbarcarsi in un processo lunghissimo, costoso, con possibili danni d'immagine e con un possibile esito incerto, beh, forse la banca potrebbe anche essere disposta a cercare un accordo extragiudiziale. Si pagherà una multa, ci si metterà d'accordo e poi si andrà avanti ciascuno per la sua strada. Un vantaggio per Goldman, in genere quando ci sono questi tipi di accordi non si deve ammettere la colpevolezza. Ma hanno insistito i rappresentanti di Goldman Sachs sul fatto che la banca, da quell'operazione particolare costruita per uno speculatore finanziario che si chiama John Paulson, che ha un fondo hedge, che cercava delle controparti a cui vendere short, a cui vendere dei titoli su cui lui stesso poi speculava, la banca Goldman non è agito soltanto come intermediario, tanto è vero che a un certo punto ha dovuto sottoscrivere delle posizioni e dalla sottoscrizione di queste posizioni ha perso 90 milioni di dollari. La domanda che si poneva Palmer è: ma come mai noi siamo sotto accusa quando in questa situazione alla fine abbiamo perso dei soldi? Beh, non la pensano così molti democratici. A fianco dello scandalo Goldman infuria la battaglia politica. But we now know all we need to know, I think, about the choices ahead. We just need to decide whether we're going to act. La voce che avete sentito è del segretario al Tesoro Tim Geithner. Ieri ha parlato in Congresso, ha detto che bisogna procedere il più urgentemente possibile con una riforma del sistema finanziario. Geithner chiede che siano imposte delle nuove regole di limitazioni molto rigide alle banche in genere. Intanto non possono esserci delle banche la cui dimensione finisce per diventare un potenziale rischio sistemico per il paese e quindi costringe poi le autorità a intervenire in caso di una crisi. In secondo luogo, l'amministrazione propone che vi sia una separazione delle attività, e quindi chi si impegna in attività di tipo speculativo, di trading, di hedge fund, di private equity, non potrà svolgere le funzioni di banca commerciale. A me questa sembra una cosa assolutamente logica: proteggere il risparmiatore da un'esposizione dei depositi al rischio della speculazione. Su questo i repubblicani non sono d'accordo. C'è una situazione di muro contro muro, addirittura all'interno della stessa SEC. Quando si è trattato di votare se procedere o meno contro Goldman Sachs, il consiglio di 5 membri si è spaccato. 3 democratici hanno votato a favore della accusa e 2 repubblicani si sono astenuti. I repubblicani dicono che l'amministrazione Obama sta utilizzando questo caso Goldman per spaventare l'opinione pubblica, per costringere nell'angolo i repubblicani. Bene, ieri c'è stata una lettera di 41 senatori repubblicani, hanno detto che se non si raggiungerà un compromesso loro non voteranno questo progetto di legge e possono passare all'ostruzionismo. Domani a New York ci sarà Barack Obama, un grande discorso atteso proprio sulla riforma finanziaria. Hey, I'm Jason Chen, this is the new iPhone. Jason Chen che parla, un simpatico esperto di internet che lavora per un sito che si chiama Gizmodo e che ha in mano il nuovo iPhone della app. L'avrete sentito un po' tutti, la storia di questa vicenda che questo signor Chen ha trovato in una birreria bavarese di Redwood City, una cittadina vicino a Cupertino, questo nuovo modello super segretissimo del nuovo iPhone, il nuovo 4G della Apple Computer, che così era appoggiato sul bancone. Lo ha riconosciuto, lo ha preso, lo ha aperto e lo ha messo in rete per milioni di fanatici della Apple Computer e soprattutto per i fan del suo sito. Ecco, la Apple ieri ha confermato che questo telefono era sparito e ha mandato una lettera molto carina chiedendo al signor Chen se per cortesia lo può restituire. Beh, anche la Apple ha potuto consolarsi ieri con notizie straordinariamente positive sul fronte dei profitti. 3,7 miliardi di dollari per il trimestre che si è chiuso ieri, il 90% in più rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso, un fatturato trimestrale di 13,5 miliardi di dollari, un aumento del 49%. Sono stati venduti 8,75 milioni di iPhone. Auguri dunque alla Apple, che ancora non ha messo in conto i risultati delle vendite, che sembrano per ora straordinarie, dell'iPad. Il grande Robert De Niro ha annunciato ieri l'avvio del Tribeca Film Festival, nato sulle ceneri dell'attacco dell'11 settembre. Il festival aperto con la prima del quarto Shrek e durerà fino al 2 maggio. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su America 24, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Una curiosità: negli Stati Uniti ieri si è celebrata la giornata nazionale della marijuana. Perché proprio il 20 di aprile? Perché il numero 420 nella cultura popolare americana è da anni un nome in codice per indicare appunto la marijuana. Proprio da quel numero 420 nasce quindi la ricorrenza 20 di aprile. Nel 71 cinque ragazzi di una scuola superiore in California decisero di andare alla scoperta di una piantagione abbandonata che però sembrava essere piena di roba, fra virgolette, e si diedero appuntamento alle 4:20 del pomeriggio per partire insieme. Ecco, da lì l'origine. In onore di questi cinque ragazzi che, ignari quel giorno, stabilirono in qualche modo un punto di riferimento storico e culturale, dedichiamo una canzone a Jimi Hendrix, Purple Haze, in cui si celebra, fra l'altro, la marijuana. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!